Radio Alma 101.9. Benvenuti a 100 città. E benvenuti, questo inizio molto calmo con questa atmosfera che fa molto lounge. Abbiamo cambiato oggi l'inizio della nostra trasmissione perché alla regia non abbiamo Giulio. Ebbene sì, oggi alla regia non abbiamo Giulio, ha dato forfè, oppure arriverà in ritardo perché oramai lui si crede una star, pensa di poter far come gli pare, ha appena varcato la porta. Sei imbarazzante, Giulio, sei veramente imbarazzante, perché noi abbiamo degli orari tassativi e faccio anche tassativi e tu non ti puoi permettere di arrivare in ritardo. Ma sono arrivato con un ospite. Hai portato un ospite molto carino e quindi per questo ti perdoniamo e ci chiediamo come mai lei sia in tua compagnia. Ma questo glielo chiederemo durante la trasmissione. Allora diamo il benvenuto a questa bella Morettina. Ciao. Ciao. Bella voce, come ti chiami? Mi chiamo Elena. Elena che viene da... Io vengo da Faenza. Da Faenza, che è vicino a Ravenna. Perché oggi parliamo appunto di Ravenna, che è la città dell'Emilia Romagna, precisamente in Romagna, dove si parla un po' così, si mangia la piadena romagnola. Con lo squacquerone. Con lo squacquerone, le lasagne. Lasagne. Invece i caplet. I caplet, invece di quel risotto smunto che si mangia a Milano, perché noi oggi abbiamo sempre il nostro opinionista imbattibile, inscalfibile, non ce lo riusciamo a togliere dai piedi. Ciao. Ciao cara. Ciao Giacomo, come va? Bene, bene, te? Oh, bene, bene. Finalmente parliamo di quella specie di paese che si trova al di sotto della zona Po. Allora, dicesi Ravenna. Giacomo ha un complesso. Giacomo rosica perché lui d'estate si mette in Piazza Duomo insieme ai barboni a giocare a carte e invece io d'estate a Ravenna vado a farmi gli happy hour. No, ma in realtà Giacomo a Milano d'estate ha anche la spiaggia. Esattamente, guarda che noi abbiamo l'idro scalo che è decisamente più bello dei rivi ravennati. Ah sì, l'idro lo sanno tutti quanti. L'idro scalo, ma dai. Tutti quanti. Dove ci vanno tutti i vips? No, che è vero, non ci vanno i vips all'idro scalo. Infatti ci vai te, cioè anch'io. Vedi che tu non hai conoscenza della città. E la spiaggetta all'Arco della Pace? Senza contare la spiaggetta artificiale che montiamo all'Arco della Pace, dove organizzano grandissimi tornei di beach volley per il piacere dei commensali che stanno facendo picnic al parco, un sacco di belle ragazze in costume da bagno nel pieno centro della sì, città. Sì, perché tu non hai mai visto gli happy hour, allora... No, perché l'happy hour l'abbiamo inventato noi, quindi... L'hanno inventato loro! Puoi chiedere a chiunque in Italia, allora, l'aperitivo è made in Milan. Ti invito quest'estate a farti un giro a Marina di Ravenna, a visitare il Coco Loco. Allora, se vuoi, non so, la musica tipo "Com'è bello far l'amore da Trieste in giù", oppure quelle canzoni tuca tuca, tu vai al Coco Loco. Mi sembri un tipo che potrebbe andare ci potrebbe in quei stare, posti lì. Ci potrebbe va stare. Bene, consigliami da autoctona. Ok, ehi. Coco Loco è pieno di... Figa? Ecco, è pieno di belle ragazze. Si beve, ti danno un secchiello dove ci metti tipo 7-8 cannucce, bevi in compagnia una bella caipirosca. Oh, ma che bella cosa. Oppure poi, dopo che sei stato al Coco Loco, vai allo Zanzibar dove fanno l'house, cioè devi andare con gli occhiali da sole. Certo, io vado solo fuori con gli occhiali da sole, lei lo sa bene. Occhiali da sole con montatura bianca, ultima moda. Dicesi per la definizione occhiali della purezza, che si indossano solo quando si raggiunge un certo livello di purezza. Ma io in quel momento, se mai ti vedrò quest'estate, ti farò un video e ti innamorerai perdutamente. Mi innamorerò senz'altro, però dopo 5 minuti sarò già disinnamorata. Può darsi, anche perché le condizioni sono abbastanza, diciamo, poco piacevoli, poco quindi piacevole. Da lontano ci può stare, ma da vicino magari anche no. E dopo che sei stato lì allo Zanzibar, puoi andare a fare un salto al Ticoa, che è subito lì vicino, dove fanno l'afro, cioè puoi andare lì a rilassarti, ci siamo capiti, no? Sì, sì, sì. Rilassarti, ballare l'afro insieme a tutti gli amici la che mattina. Suonano lo jambè. La mattina, sì, sì, dopo che hai fatto tutta la notte negli altri bagni. Ok, allora ci siamo. Anche perché comunque è abbastanza nota la vostra zona per essere una zona di gran divertimento e di grandissimi, diciamo, attrazioni, attrattive per il popolo giovane. E maschile anche. Maschile ma anche femminile, anche penso femminile. Che trovino di che divertirsi, sì, no? Sì, alla grande. Se no non sarebbe così alla grande. Rinomata. E si parte così, si parte dalla mattina, no? Si va in spiaggia, poi alle 5 inizia quello che si chiama happy hour, Io solitamente faccio così: alle 5 vado al Moschito, dove veramente ti lanci in un'atmosfera brasiliana, perché balli latini, poi tutti brasiliani e tutte brasiliane, e via, si balla la samba. Poi dopo che sei stata al Moschito, vai e vai alla Duna degli Orsi, magari. La Duna degli Orsi la conoscono anche i bolognesi, se abbiamo dei bolognesi all'ascolto, oppure dei modenesi, perché comunque è molto frequentato e c'è musica per tutti i gusti. Ma Ravenna, diciamolo, non è solo divertimento. Ha questa cosa delle spiagge sicuramente divertenti e degli happy hour, ma è una città altamente, altamente culturale. Infatti tra un po' parleremo di cosa possiamo trovare a Ravenna, tant'è che anche Oscar Wilde si espresse circa questa città. Comunque ne parliamo dopo, ciao! Because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in a bag. With the rerun shows and the cocaine knows ya, the daytime crap of a folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. So oh, my heart with boyish passion burned. When far away across the sedge and mare, I saw the holy city rising clear, Croy with her crown of towers, on and on. Je t'aime. I go up racing with the setting sun. Je t'aime. And here, the crimson after glow were passed. I stand with Ravenna's wall, at least. Oh, wow, che interpretation! Abbiamo sentito Giacomo interpretare le parole che Oscar Wilde disse su Ravenna nel 1878. E non solo Oscar Wilde si espresse su Ravenna, ah, però ce lo potresti tradurre, hai capito un po' di quello che hai letto? Se lo dice Wilde, sicuramente sarà legato a qualche storia di perversione, di malattia mentale. Okay. Quindi evidentemente Ravenna era già nota a livello di meta di Platinette e Company già nell'epoca dell'Ottocento. Ma non è vero assolutamente. Invece dice delle frasi romantiche. Sì, ma rivolte a chi? La mia domanda era esatto. Questa. A te, rivolte a te. Ma scritto per Giacomo. Sì. E anche Gabriele D'Annunzio si è espresso su Ravenna. Esatto, rimane sempre lì un po'. Notti gusti. E dice: Ravenna, glauca notte rutilante d'oro, sepolcro di violenti custodito da terribili sguardi. Cupa carena grave d'un incarco, imperiale, ferrea, costrutta di quel ferro onde il fato è invincibile. Ravenna, stavamo dicendo, è una piccola città, non è che sia un gran capoluogo, comunque conta 153.000 abitanti, Giacomo mi sta guardando. Importante, no? Ecco, sembra che fa pesare Milano. Però il suo territorio comunale è per estensione il secondo in Italia, superato solo da quello di Roma. Ti è territorio comunale? Territorio comunale, quindi diciamo tutte le province dove abita. Allora, perché diciamo, io sono di Ravenna, no? Io sono la cittadina Ravenna City, però abbiamo qualcuno che viene dalla campagna romagnola, la Magiera. E sentite, quei microfoni sta parlando il nostro playboy radiofonico, il DJ Giulio, che viene da Masiera, che è vicino a Ravenna. Masiera è vicino a Fusignano, il paese di Arrigo Sacchi. Grande la righe. Il paese di Arrigo Sacchi è quanto è lontano da Ravenna circa? Direi un 25 km. Ah, però questo non è così vicino, insomma. È la metropoli. Tu a Ravenna non ci vieni mai. Fai prima venire a Lugo. Infatti. vero? Esattamente. E quindi di Ravenna non sai niente, neanche, non so, un po' di movida notturna l'hai vissuta tu in città o sei sempre rimasto nel bar sport a giocare a carte con i tuoi amici novantenni? Io la metropoli purtroppo non l'ho vissuta. Ah, cioè, eri sempre lì nel tuo campo di pannocchie a raccogliere le pesche, anche in inverno, e a scavare per cercare monete antiche. Esatto. E resti di della guerriglia come simpatiche granate. C'è un piccolo tempio in camera tua che magari vale qualche milione di euro e tu non lo sai. No. Però io ho sempre questo ricordo dei pompieri che vennero a scovare una mina. Ah, questa è storia. Questa è storia, è vero? E i pompieri vennero lì e tu hai questa immagine, le hai viste come degli eroi, no? Che vennero là a salvarti la vita, perché tu potevi essere lì a correre proprio in quel punto e a giocare a calcio con i tuoi amici e ti potevi, pum, ad un certo punto, ciao. Te è capitato. E quindi ti hanno salvato la vita. Deve una bomba veramente fatta bene. Eh sì, grazie ai pompieri, quindi. Grazie ai pompieri. Grazie. E ai pompieri di Fusignano o Masiera, non lo so. No, non siamo così avanzati, erano più. No, non ho capito. Ma comunque Ravenna, torniamo a Ravenna che Giulio non ha mai visto, quindi istruiamolo un po' su questa città. Come sogno, la notte la sogno a volte. Ti piacerebbe. Quando queste mura bianche. È vero. È una città d'arte di prima grandezza, tanto è vero che ben 8 monumenti cittadini sono stati dichiarati dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Ormai è patrimonio dell'UNESCO pure la stazione di Gardumidi, cioè non mi stupisce che ci sia anche Ravenna. Ecco, nel ruolo sempre del nostro criticone, lui non si smentisce mai, deve sempre dar conto a Ravenna, guarda, ma comunque quest'estate se ti vedrò ubriaco, che ti divertirai tantissimo in giro per gli happy hour, poi ti dirò, hai visto quanto è avanti Ravenna? Va bene. Diamo il benvenuto a un'altra ospite che è qua con noi, Giulia, che è stata qua con noi per la puntata di Parma. E purtroppo sono senza il compagno. Stasera sono da sola. Sei da sola, così, in cerca di avventure. Eh sì. Ok. E niente, io sono rimasta un po' delusa perché Parma, che lui prendeva tanto in giro, è più grande di Ravenna. Ovvio, 180.000 abitanti contro 150.000 abitanti. Esatto. E quindi siamo veramente una città piccolissima, piccola. Mentre Parma invece è una metropoli. Parma è già una metropoli di tutto rispetto. Giustamente. E ci stiamo allargando, diciamo. Si sta. Con le opere architettoniche di quegli architetti che tu stimi tanto. Che io stimo tanto, volendo. No, dai. Vabbè. Che poi non ti ho chiesto, tu sai, Ravenna l'hai un po' presente, Giulia? Io ci sono stata tipo alle medie in gita con la scuola, però va bene. Non ti ricordi quindi quello che magari hai visitato di Ravenna? Perché certo. Tu sei un architetto, no? Beh no, aspetta, io mi ricordo. Allora, Galla Placidia me lo ricordo. E che stile è? Se tu devi collocarlo in uno stile? Bizantino o paleocristiano? Perfetto, bravissima. Questa è la voce della cultura. Allora, troviamo il mausoleo di Teodorico, che è famoso direi in tutto il mondo. C'è Viale Teodorico, c'è casa mia. Va bene. Te l'ho già detto. Poi il mausoleo di Galla Placidia, come Santa ci diceva Santa Apollinare in classe. Poi in loggetta lombardesca, che è vicino praticamente a Santa Maria in Porto, una chiesa molto famosa di Ravenna, c'è questa mostra che parte dai quadri appunto dell'epoca del Settecento fino ad arrivare all'epoca più contemporanea. È veramente interessante da visitare, per i ragazzi che magari sono sotto i 26 anni si spende una cosa come 2 euro, quindi vi consiglio di andare a vedere l'oggetta lombardesca, veramente una mostra veramente molto molto bella. Poi ci sono sempre iniziative per quanto riguarda la musica, per esempio abbiamo il Teatro Alighieri, che è veramente conosciuto per quanto riguarda anche il maestro che c'è all'interno di questo teatro, che è Muti, il grandissimo Muti. E ci sono sempre degli eventi molto importanti, dalla danza classica, alla prosa, ai concerti, a varie iniziative, insomma, che riguardano tutto quello che è lo spettacolo. Per quanto riguarda i gruppi giovanili, abbiamo band emergenti che stanno venendo fuori anche con generi musicali innovativi. Abbiamo generi anche che possono svariare dal rap allo sperimentale anche. Tu, Giulio, ne conosci qualcuno di gruppo musicale? Un sacco. Dici un nome almeno. Ma quelli sgrausi che sono nei circoli arti. E quelli sono sempre migliori. Pagati zero. Esatto. Quelli non diciamo pagati sono sempre migliori, fidati. A Ravenna va molto anche i circoli arci. Abbiamo per esempio il Bronson, no? Che è molto conosciuto. Abbiamo il Brainstorm a Fusignano. Il Brainstorm. Ah, bello, conosciuto. Quest'anno siamo finiti anche su Repubblica. Ah, sì? Per un incendio a Codoloso. Che avete fatto? Che scandaloso. Per una rassegna di cui non ricordo il nome, sinceramente. Beh, quindi ti è rimasta impressa, notato? No, è che non ero nell'organizzazione. Ah, solo per quello. Ma neanche sei andata a vederla, mi sembra. Qua a Bruxelles. Te ne fregava proprio, non te ne fregava. Nonostante questo ho ricevuto la cesta di Natale. Bene, cioè hai guadagnato qualcosa. L'ho guadagnato. E poi altre cose che possiamo parlare, l'università. Ultimamente l'università Ravenna si è ampliata moltissimo. Infatti prima avevamo solo due o tre corsi di laurea, adesso abbiamo anche infermieristica, abbiamo ingegneria. La nostra Giulia, per esempio, che è qua ospite, ha fatto l'università o fa l'università. Tu la fai, però mi sembra che sei andata fuori Ravenna, no? Io sono andata fuori Ravenna. Sei andata fuori Ravenna? Fuori Ravenna, fuori regione, sono andata nella terra. Indovina un no, po'. No, no, no, è andata a Milano. Mi dispiace, io sono indovina un po' dove va a studiare. Milanese. Già. Ma in realtà, perché a Ravenna ci sono comunque facoltà molto artistiche, cioè beni culturali, in molti fanno recupero di restauro esatto, qua. Scusatemi, recupero. Però adesso c'è tanto, anche hanno anche questa università che ha ingegneria, che non sapevo, abbastanza frequentata, ha molti numeri di iscritti ogni anno. Però se ti può far piacere, non ho fatto restauro a Ravenna, ma da piccola facevo sempre i mosaici con le pedine di... Chi non l'ha fatto? Adesso che so questa cosa, chi non è stato obbligato? La mia stima da ravennate è cresciuta a scuola, obbligata a scuola ovviamente. Vorrei vedere una tua opera d'arte, sarei molto curioso. Ho fatto... Come? Attendo, sì, si è sporcata le mani di Vinaville. Facendo finti mosaici in carta di giornali. Ma magari sì, se lo mangiava proprio il Vinaville. Se lo mangiava. No, ma comunque alla Stewie Griffin. I mosaici ha introdotto un argomento che è molto importante per questa città, perché nel Galla Placidia, in Santa Polinare in classe anche ci sono dei mosaici, te li ricordi qualcuno? Beh, c'è in Santa Polinare in classe, c'è quello di Giustiniano, quello di Bettese, quello ortodosso e quella cattolica, che mi ricordo. Poi gli altri Oh ragazzi, per fortuna che ha preparata lei, perché sennò qua eravamo messi male. Vabbè, ma in materia. Sì, architetto. Tra l'altro Ravenna è stata anche capitale dell'impero bizantino, sbaglio? Sì. Esatto. Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ce lo rivelano gli occhi e le battute della gente, o la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Ribienvenue, welcome to Radio Alma, welcome to 100 città. Oggi parliamo di una città fantastica dove abitano bellezze veramente indescrivibili, donne procaci stupende, procaci, quasi belle come delle dee proprio. Infatti botticelliane. Abbiamo delle donne botticelliane in questa città grande. Elena ha azzeccato proprio il termine giusto. Stavamo prima dibattendo su un argomento che è il provincialismo, no? E quindi abbiamo qua un milanese che è Giacomo, una parmigiana che è Giulia, e diciamo una ravennate che è Elena. e ci stavamo confrontando su quello che può essere il provincialismo, no? Perché io mi rivolgo a Giulia o a Elena, cioè diciamo che un po' il provincialismo a me, a Giulia ci piace. Ma ci piace molto. Ci piace molto questa cosa che abbiamo sempre lo stesso posto di ritrovo, facciamo gli spettegolezzi perché se succede una cosa in città la sanno, tutti, sanno tutti, e ci sguazziamo proprio su queste, certo, cose, ci facciamo delle grasse grasse risate. Alla grande. Oppure andare a mangiare in quell'osteria dove fanno la carne buona e poi ci si alza e si cantano le canzoni tutti da ubriachi, non so se hai presente, no? Certo, certo. E invece dicevamo che il provincialismo non è proprio essere chiusi di mente, è un po' essere attaccati alle proprie origini. Esatto. Però non vuol dire che io vado a Bruxelles e poi non sono pronta magari ad affrontare il diverso. No, anche perché altrimenti non sarei venuta. Altrimenti, esatto, non saresti venuta. Tu Giacomo cosa ne pensi? Cioè, se tu che sei di Milano, no? Perché il milanese, io ho un cugino di Milano, hanno questa cosa di far pesare molto, si sentono il caput mundi, no? Perché Milano, capitale della moda, Milano è avanti in tante cose. Cosa ne pensi tu? Tu noti questo provincialismo quando conosci qualcuno magari di una piccola città, o è una cosa che a prescindere dalla città noti? Ma il provincialismo fondamentalmente, per come l'hai descritto tu, non è neanche forse la definizione più corretta, perché l'attaccamento alle tradizioni, diciamo, cittadine o popolari non è una cosa che è esclusivamente della provincia o dei villaggi, ma lo puoi trovare anche nelle grandi città. Gli stessi milanesi, come dicevi tu, sono orgogliosi, ma in primis sono orgogliosi della loro cultura. Mm-hmm. Più che altro, cioè la moda, sì, la moda si fa pur parlare della moda, città, così, però in realtà un vero milanese interessa poco, almeno io rischio di schiantarmi il motorino ogni volta che c'è città la settimana della moda, che è troppo pieno di belle ragazze, quindi quello è un problema tecnico, no? ma diciamo una cosa, cioè in un paese piccolo c'è più calore, però cioè... si sente sicuramente la differenza tra gente che viene dalla campagna e gente che viene dalla città. Dalla città. Ma una città grande come Milano è un po' dispersiva, no? Voglio dire, giri per la città, non è che conosci tutti, vai a farti un giro in centro a Milano. Noi facciamo un giro in centro a Parma o Ravenna, è un ciao non continuo, ciao ciao ciao, che come due stai? Non ce la puoi fare. Oppure andiamo nei locali, no? Adesso diciamo qualche locale, c'è il Fellini che è molto famoso a Ravenna dove si va a fare l'aperitivo, cioè lì vedi facce sempre conosciute, non c'è mai gente nuova. Che No! E invece a Milano ogni volta c'è un posto nuovo ed è difficile che magari vedi delle facce conosciute. Anche se, alla fine il milanese vero frequenta sempre gli stessi posti. Fondamentalmente è un giro vizioso, non posso darti torto, che comprende, non so, magari al posto di due posti ne comprenderà un numero più alto, insomma, ventina, si dividono a stagioni, però sì. E anche lì, no, il discorso della gente, alla fine Milano è un gran paesone, perché tu dici saluti tutti in città, nella tua città frequenti, verrai alle feste più o meno lo stesso centinaio di persone, noi vediamo sempre le stesse 2-3 mila facce, che dopo 2 o 3 anni ti assicuro che riconosci tutte 2-3 mila. In un modo o nell'altro, perché sono sempre le stesse feste, cioè la gente che frequenta certi tipi di ambiente è più o meno sempre la stessa, a seconda delle novità, ovviamente. E poi non è un po' vero che più la città è grande, no? Per esempio prendiamo anche Roma, e più c'è una forza, diciamo, centrifuga che porta alla formazione di quello che può essere detto un quartiere. Quindi la città è grande, però ci sono i quartieri, e quindi è come se diventasse più piccola in piccole zone, si suddividesse in piccole zone. È più Roma quella, Però quella è forse più Roma che c'è. Roma sì, ce l'ha sì, molto sì. Questo. Infatti a Roma, quando chiedi da dove vieni a Roma, la gente ti dice proprio il quartiere. Il quartiere. Uno dice da che viene, vengo da zona tot, non so, sì, vicino alla fermata della metropolitana, Milano ti dicono più così, anche Torino non è una città che dici tanto quartiere. Roma sì, in effetti. Roma invece sì. Forse sì, perché per estensione è molto più grande. Forse anche per quello, esattamente. Cioè, tornando a Ravenna, volevo sottolineare un argomento che è un po' un difetto di questa città, che non so se Giulio lo sa, il nostro regista si è perso, è il problema delle strade. A Ravenna si lamentano tutti quando vengono da fuori che ci sono troppe rotonde. Come a Parma, uguale. Anche a Parma, uguale, sì. Si vede che la città piccola però, non so, ispira le rotonde. No, è che però non si lamentano. No, funzionano molto bene, in effetti, quello lì non c'è niente da dire. Più che le rotonde, io mi perdo sempre quando vengo a Ravenna. Ogni volta che faccio Faenza Marina di Ravenna, c'è veramente un ternallotto per riuscirsi a tornare a casa. Si perde lei che è autoctona, figurati. No, è veramente, infatti tutti quando vengono da fuori dicono che Ravenna è difficile da girare perché nell'arco di 200 metri veramente puoi riuscire a perderti. Nonostante... Il problema vero, forse non sono le rotonde ma i sensi unici a Ravenna, perché i sensi unici ti fregano sempre, io non lo so. State attenti alle multe a Ravenna perché i vigili sono incavolatissimi e sono sempre in agguato, pronti a scovarvi se avete messo una macchina in un divieto di sosta, siete entrati in un doppio senso, anche in bicicletta. Allora io ero a Ravenna in centro in bicicletta e il vigile mi ha fermato, mi voleva fare la multa. Non è tanto distante la mentalità belga, quindi la tua Ravenna. Esatto, che fa delle cose. E mi fa segno Giulio che abbiamo una telefonata. Abbiamo in linea un ragazzo che fa parte di un gruppo della zona di Ravenna che si chiama una giovane band emergente e questo ragazzo si chiama, abbiamo i microfoni? Marco, ciao Marco. Siamo collegati, ci siamo, benvenuta a Radio Alma. Bene, grazie a voi per avermi ospitato. Ciao Marco. Ti saluta. Giacomo, il nostro opinionista, stai attento perché è sempre pronto a lanciarti delle battutine. Ciao, ma noi metallari siamo brutti e cattivi. Ah, metallaro, durissimo, grande. Ma a lui piace, perché a Giacomo, anche se si veste quella cravatina e la giacchina, a lui piace questa musica. Sì, c'è, io lavoro. Allora Marco, cosa ci dici quindi di questo panorama musicale ravennate? Il panorama musicale ravennate, anche italiano volendo, sotto le righe, nel sottobosco, volendo potrebbe essere bello fiorente, però sappiamo purtroppo qual è la situazione musicale italiana. Mancano diciamo degli aiuti, manca un, non so, un sistema che vi promuova a livello proprio locale di concerti. In Italia manca soprattutto il concetto, manca il concetto della musica nuova da proporre, della proposizione comunque di le proposte di nuovi stili, nuove band musicali, nuovi sound. Purtroppo in Italia siamo sempre legati a quello che è il passato, dai 10 anni fa all'indietro, quindi chi cerca comunque di proporre cose nuove, chi cerca di uscire, di emergere con un sound personale, in Italia fa molta fatica. È vero, spesso e volentieri ci vuole un po' di affermazione, soprattutto anche a livello di promozione, perché è tutto un gioco di farsi pubblicità. Una volta che trovi il canale giusto. Esatto, le case discografiche, le agenzie cercano il soldo facile, quindi esattamente. Magari puntano più sul nome noto che non ha più cartucce da sparare, piuttosto che una band nuova che di cartucce ne avrebbe di buone anche. E non parlando soltanto della mia band, perché noi comunque abbiamo avuto occasione di conoscere un sacco di band emergenti in questi anni e ce ne sarebbe veramente tanta di musica da dire, da far sentire al pubblico italiano. Però purtroppo non siamo noi a decidere, purtroppo. Ma senti, io sapevo del vostro gruppo che ha avuto anche delle grosse soddisfazioni. Sì, noi abbiamo avuto appunto, rimanendo sull'argomento, una soddisfazione un po' agrodolce, perché noi è dal mese di agosto 2008 che siamo in onda con un videoclip su le tre più grosse reti televisive musicali, che sono MTV, All Music e Rock TV. Complimenti. È stata una bellissima cosa, tra l'altro, solo che appunto come dicevamo prima, essendo una rock band che non ha dietro un'etichetta discografica, il video sta passando in rotazione non ufficiale e non ha avuto un minimo di promozione, quindi diciamo che è un videoclip vagante che ogni tanto passa a qualche ora notturna e c'è qualche disperato che lo vede, magari può arrivare il complimentino su MySpace, sul sito, ma non ci ha aiutato a rompere il ghiaccio come speravamo. Vediamo di fare il nome di questa band, vediamo di fare una mini promozione da qua almeno, no? Dai, di il nome della tua band, che vediamo di espandere a livello comunitario, visto che questa è la capitale d'Europa. Il progetto si chiama Biosystem 55. È una band che prima sentivo Dela che diceva ragazzi giovani emergenti, giovani sì di età, ma è una band che è dal 1997 che è stata fondata. Quella. Ha un discreto trascorso e una discreta dose di esperienza vissuta, perché abbiamo veramente affrontato le vecchie, abbiamo già il bastone, a 25 anni ci troviamo già col bastone. Addirittura, mai visti mettere col bastone, neanche a 60 anni. Volevo chiederti, quindi voi di soldi non ne avete visti, zero? No, vi siete fatti un mazzo così e zero entrate? Guarda, in 10 anni che suoniamo insieme con l'ultima formazione, non abbiamo mai visto un quattrino, mai, tutto autoprodotto, tutto a rate, buste su buste, non è... Scusa, ma nemmeno... Marco, scusa, nemmeno la classica piadina patate fritte offerta alla festa dell'unità? Sì, guarda, quella lì... Questa dà una soddisfazione incredibile. È una cosa che si può trovare in qualche locale, ma è rarissimo. Dai, ma almeno 100 euro a serata, di 100 euro a serata, è arrivata la miliardaria. A Parma li danno, ragazzi, a Parma. Vai a suonare a Parma, allora. Differenza tra l'Emilia e la Romagna. A Parma, un bel Parma Tour. Un tappetino a Milano, salutare a Milano. Che tu hai vieni. Hai fatto un'esibizione a Milano anche. Più di una. Ma non te, cioè te già fai le esibizioni tutte le settimane. Tanti in giro per locali. Ma no, dicevo con Marco che tu hai fatto un'esibizione al Rock and Roll di Milano. Sì, abbiamo fatto un'esibizione lì per presentare il disco. E sì, insomma, non mi vergogno comunque a dire che non è stato un granché, purtroppo. Pensate che il locale, voglio dire, che dovrebbe essere il primo che ha interesse a pubblicizzare un evento che avviene, no? È stato il primo che non ha fatto volantinaggio, niente. Quindi insomma il locale ha organizzato una data dentro, appunto, sul suo palco e non ha pubblicizzato un minimo, perché comunque non eravamo un nome conosciuto. Sì, esatto. Ma sei Giacomo, ma qualcosa hai detto Rock and Roll, eh? Rock and Roll di Milano, esatto. Ma è Busto Arsizio? Sconosciuto. Sconosciutissimo. Ma senti, sono non stati, è che c'è solo l'idroscalo. Ma te sei da Fusignano, ci credo, cioè, normale. Sono i VIP di quella che credono essere musica rock in Italia, che se la tirano un casino, che fanno la cricca col proprietario del locale, perché uno lavora a Rock TV, l'altro ad affare. Ah, capito, è uno sporco mondo. Marco, ma scusa, tu lo conosci il circolo Arci Brainstorm di Fusignano? Dai, devi conoscerlo. Allora, io non l'ho mai sentito, ma la risata che ne è seguita mi fa pensare. Senti, che aspetta, no. Abbiamo fatto suonare gruppi che tu conoscerai sicuramente, come i Two Kill da Roma. Io i Two Kill ho avuto modo di vederli dal vivo a Rock Planet. E loro, per dire, sono la band che viene, diciamo, nominata come la band baluardo del metalcore, dell'hardcore italiano, più che metalcore. Però insomma io, con tutto il rispetto che provo per loro, che sono artisti come noi, diciamo che se loro sono lì, tante altre band ci stanno dentro alla grande, ecco. Ma Marco, ma sei Rock Planet, scusa. Spieghiamo un po' agli ascoltatori. A Rock Planet secondo me fanno pay for play. Non ho mai avuto notizie ufficiali, ma per me fanno pay for play. Beh, chi paga suona, perché io non ho pagato. Ma a Faenza hai messo una... No, a Faenza no. Noi conosciamo un gruppo di quelle parti che fanno i foto, si chiamano Studio Staff. Lo Studio Staff. E tra l'altro li nomino con orgoglio, perché loro compariranno nel nostro nuovo disco in una featuring, e sono veramente una band di pop che spacca, ragazzi. Secondo me in Italia come loro in questo momento ce ne sono davvero. Confermo, veramente bravi. Adesso tu stai preparando il disco col tuo gruppo, no? Sì, noi stiamo preparando il nostro disco, sarà pronto per la fine di febbraio, è un silenzio di 10 tracce e insomma già della carne al fuoco, stiamo cercando di accumulare contatti. Vedremo come va. Ma sei ad Alfonsina. Alfonsina è vicino a Ravenna, è uno studio che è famoso in tutta Italia. Il Pier, no? Studio. Esatto, il Pier Studio. Questa volta abbiamo deciso di fare una cosa fatta per il verso giusto. Abbiamo deciso di votarci le tasche per l'ennesima volta, ma almeno di sparare un disco come si deve. Diciamo che il Pier Studio in Italia, per quanto riguarda il metal, è l'unico che riesce a garantire una qualità di sound di campo tipo internazionale, ecco. Ma anche voi mangiate i pipistrelli? Ma noi preferiamo le cocche dei pipistrelli, eh? Ah beh, ottimo. Ce n'è già un passo avanti. Cocchiadina di pipistrelli, c'è una bella fettina di piadina, dovresti sentire, guarda. No, benissimo, ma la prossima volta che vengo giù mi ospiti e me ne offri uno, esatto, mi raccomando. Ci facciamo piadina di pipistrelli. Bella, paura. Marco, dimmi tre cantanti che secondo te in Italia, se ti vuoi scoprire, hanno fatto successo e non se lo meritavano affatto. Madonna, io lo sapevo che mi capitava la domanda spinosa. Almeno dimmene una. Esponiti, a parte Tiziano Ferro, che lo sanno tutti, eh. E sparare sulla Croce Rossa non vale. Ti dirò, e... la lancia, perché i metallari girano sempre in quest'aura di stereotipi, no? E in verità ti dico che io ai tuoi cosa? Secondo me Tiziano Ferro è molto in gamba come artista. Sì, lui è uno che si è fatto veramente il mazzo e se la merita la posizione. Poi diciamo, non lo so, guarda, anche perché soprattutto nel nostro genere, beh, io guardate, ecco, uno mi viene in mente, io so che è adorato e mi verranno a cercare sotto casa, ma per me Vasco Rossi, il nostro mito Vasco Rossi, attenzione, qua potresti fare arrabbiare molta gente. Io ti dico, io non ho mai avuto modo di conoscerlo, io ho sempre sentito dire che è veramente una grande persona, però non lo so, gli dico, sa come lo conosci? Sì, sì. In Italia faccia rock, facciamo delle cose insieme. Adesso ragazzi, comunque io la penso come te. Tra l'altro Giulia è d'accordo con te. Parti. Il tuo MySpace? Il MySpace della mia band è molto semplice, il nome stesso della band, myspace.com/biosystem55. Ok, va bene, ti ringraziamo, adesso mettiamo su una vostra canzone e speriamo presto di vedervi sugli schermi di MTV, ma con i giusti meriti. Speriamo. Vi ringrazio molto per avermi ospitato in trasmissione. Ok, ciao Marco. Un gran in bocca al lupo, Marco. Ciao BioSystem, ciao Marco. Ciao, grazie. Grazie mille, ci vediamo. Bentornati a Cento Città, Radio Alma. Abbiamo ascoltato Maniac, cover di Michael Sembello, fatta dai Biosystem 55. Siamo stati al telefono con Marco, che ringraziamo ancora e salutiamo. No, scusa, devo dire una cosa, mi devo fermare tutti, mi dispiace. È importante. Evidentemente la canzone ha dato una botta di una botta di ormoni alla ragazza, che fino a questo momento sembrava assopita nella sua nebbia parmigiana. Dici. No, devo fare gli auguri alla mia carissima amica. Che palle, no? Si frega. 30 anni, 30 sono 30, ragazzi, una donna 30 anni. Figa che ansia. È abbastanza distruttiva. Ragazzi, vivetevi la vita. E lei già si fa le paranoie, tu le fai gli auguri in radio e dici anche quanti anni conti. Oh. Così si aiuta le amiche. Cioè, infatti. Brava. Comunque faccio gli auguri alla Lolly. Anche se con auguri alla Lolly da parte di tutti. Anche se ha 30 anni. Anche se ha 30 anni. No, maggiore, non voglio dire auguri. auguri. Perché fino ad adesso è andata bene, ma adesso iniziano i cazzi. Noi abbiamo finito qua con 100 città, però voglio chiudere con una perla di saggezza di Giacomo. A proposito di 30 anni, ragazzi, mi raccomando, finché ce li abbiamo, quel due davanti, vediamo di goderci la vita. Ma sì, ma godetevela anche voi che non avete il 2 davanti, godetevela sempre la vita, 80 anni, 90 anni, 20, 30, 40, perché vale la pena di essere vissuta. Stare in paranoia, essere tristi, non conta nulla, dopo vi riducete come Giulio, che non è bello. Grazie a tutti, ci ritroviamo il 5 febbraio, che faremo, Giulio, se non sbaglio, una puntata dove ci saranno tutti, no? Sì. Ci saranno tutti gli ospiti delle città che abbiamo fatto. Veramente? Sì. Che sorpresa. Lui vive nel suo mondo. Buongiorno, benvenuto alla tua città. Totalmente contento. Va bene, allora la prossima puntata con 100 città e tutti gli ospiti. Ovviamente sempre il nostro Giacomo qua in studio. Immancabile. E Giulia non può mancare perché rappresenta Parma. Okay. E anche Elena, che rappresenta Ravenna. Che non sarò più a Bruxelles, ma... Ma lei tornerà. Tornerò apposta. Per la puntata. Sì, esatto. Mi sembra il mio. Per 100 città, questo ed altro. Ciao. Ciao.